punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori di Radio 24, un saluto, un buongiorno, buon sabato, naturalmente da me, da Gigi Donelli, da Fabio Cantadore in regia questa mattina. Bene, questa settimana, punto a capo, riparte dalla Libia. Le grida di gioia per la fine della dittatura in Libia, mentre dall'altra parte del mondo si cominciano a prendere le misure per entrare nel paese. La Libia è al centro della videoconferenza tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Nicolas Sarkozy e il premier britannico David Cameron. L'Italia non è stata invitata al tavolo e questo è un pessimo elemento, considerando anche l'impegno degli ultimi mesi del nostro paese per la Libia. A Roma la notizia della morte di Gheddafi è stata accolta con un certo sollievo dal premier Silvio Berlusconi, che ha detto «Sic transit gloria mundi». Resta avvolto nel mistero la morte di Gheddafi. Il Rais stava fuggendo da Sirte, appena espugnata dai ribelli diretto a sud, su un convoglio di 7 macchine formato da familiari e fedeli, quando è stato intercettato dagli aerei della NATO e via terra dai ribelli. L'epilogo: Gheddafi viene circondato dai ribelli e mostrato con la faccia insanguinata mentre è spinto con un una macchina. Si muove, a un certo punto si vede una pistola in mano a un ribelle ed è probabile che proprio quell'arma abbia sparato un colpo e ucciso il Rais. Ma il dettaglio è tutt'altro che chiaro. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Decisamente la notizia della settimana. Il colonnello Gheddafi, dunque catturato, ucciso giovedì 20 ottobre dopo una fuga lunghissima. Una notizia che sicuramente resta nella storia, che chiude dopo 42 anni la vicenda di uno dei dittatori più controversi del nostro tempo. Il colonnello Gheddafi è effettivamente un uomo che ha saputo essere spietato e insieme blandire all'interno e all'esterno del suo paese. Un uomo che è stato nemico acerrimo di molti, a cominciare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, ma anche all'occorrenza di essere amico di tutti. Era il leader cui si riconosceva la capacità di assicurare la stabilità del grande pozzo petrolifero e del gas libico, che ancora nell'agosto dello scorso anno era la star indiscussa di un'estate romana in cui tornava per la quarta volta in poco più di un anno. È chiaro che oggi sembra tutto molto distante, ma provate a ricordare i titoli del 29 agosto 2010. Bene, il tenore era Gheddafi Show a Roma, oppure centinaia di ragazze reclutate come comitato di benvenuto, anche la provocazione di un'Europa tutta musulmana. Insomma, il colonnello Gheddafi era arrivato con 4 aerei mobilitati da Tripoli e poi, tanto per non farsi mancare nulla, aveva deciso, aveva voluto un bagno di folla in serata per le vie del centro di Roma. Questa dunque la notizia della settimana, ma naturalmente parleremo anche del summit europeo, che di fatto è partito ieri con l'incontro dei ministri finanziari e che proseguirà, si spera, fino a domani con l'incontro dei capi di Stato. Insomma, un incontro importante, se ne parla da tutta settimana, per trovare la quadra di una crisi che in qualche modo è targata Grecia, ma si legge Europa ed Euro. Punto e a capo. Il disimpegno militare della NATO in Libia potrebbe essere graduale, a prescindere da una possibile decisione sulla fine della missione, appunto dopo la morte di Gheddafi. Questo afferma l'Alleanza Atlantica dal quartiere generale di Bruxelles, dove appunto ieri si è svolta la riunione dei vertici militari dell'Alleanza Atlantica. Intanto si moltiplicano i commenti sugli eventi appunto che hanno portato alla cattura e alla morte, e di fatto all'uccisione del colonnello. Tra le varie voci, quelle della Russia, Russia polemica, che dice non c'era alcun collegamento, nessuna necessità di fermare il convoglio, nessun collegamento e nessuna minaccia soprattutto rappresentata dal convoglio del colonnello che è stato oggetto dei bombardamenti e dei missili della NATO e poi dell'azione delle truppe di terra. Tutto questo per dire che sicuramente intorno alle ultime ore del colonnello si parlerà ancora a lungo. Intanto quello che noi facciamo ripercorrendo questa settimana è rinnovare un interrogativo. Allora, la guerra è dunque finita? Per l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, ora il pericolo si chiama disarmo. I festeggiamenti ci sono scontati. Il timore però è che una volta venuto meno il collante che teneva unite le varie fazioni militari, anche quelle politiche, vale a dire la guerra contro Gheddafi, la caduta di Sirte e di Bani Walid, adesso ci sia un senso di smarrimento dopo la grande conquista. Quali sono, mi dicevano, sul campo i maggiori timori? Beh, innanzitutto il disarmo. Vale a dire, quando ho lasciato Tripoli poche settimane fa, vi erano tantissime armi in mano alla popolazione, i stessi ragazzini giravano con le granate. Il Consiglio Nazionale di Transizione, che controllava la situazione, aveva censito tutte le armi, dando una tessera per così avere un numero preciso di chi aveva le armi e cosa faceva. Ma è un'altra cosa, è ora ritirarle effettivamente. Molti libici dicono non vogliamo consegnare le armi fino a che non saremo tranquilli e non ci saranno dei pericoli di rappresaglie. E questo è un grande punto di domanda. Per ritirare per esempio le armi ai cittadini e ai vari clan ci vorrà un esercito e una polizia nazionali, ma in questo momento è un compito la creazione di un esercito e di una polizia nazionale che è al di là da venire, perché bisogna mettere sotto lo stesso ombrello tribù un tempo rivali, soprattutto cirenaici e tripolitani. Quindi questa è già una grande sfida. Il disarmo, dunque, è una fase chiaramente decisiva anche per definire, chiarire i tempi della ripresa, del ritorno alla normalità, anche se in questo caso bisogna stare attenti ai termini. La normalità, appunto, del regime di Gheddafi non è evidentemente l'obiettivo che persegue la società libica e la comunità internazionale. In ogni caso, su chi invece continua di fatto ad essere in guerra intorno o all'interno del grande territorio libico, vi segnalo una notizia proprio di questa settimana che viene rilanciata dall'Organizzazione Mondiale dell'Emigrazione e che ci racconta che ancora dei convogli, in questo caso due giorni fa, un enorme convoglio di 1220 persone ha raggiunto il Chad dopo 15 giorni di viaggio attraverso il deserto. Insomma, la guerra, o sicuramente la guerra di Gheddafi, è conclusa, ma di sicuro l'onda lunga di questa tragedia umanitaria che è stata la rivoluzione libica, la crisi, la guerra che ne è seguita, non si è ancora conclusa. Punto e a capo. Questa settimana è stata anche quella degli scioperi generali in Grecia e dopo due giorni particolarmente intensi, violenti, anche drammatici, Atene nel fine settimana torna alla normalità, cerca di tornare alla normalità, lo ricordiamo tra l'altro negli scontri. Scontri che hanno causato anche la morte di un sindacalista cinquantenne, la città in alcune vie, in alcune tratte appunto della capitale greca è stata veramente devastata dalla grande protesta. Tutto questo si proietta in ogni caso verso il fine settimana, il vertice, il summit europeo in cui l'Unione cerca un accordo trainato dalla linea franco-tedesca che però nelle ultime ore diciamo, è stata di nuovo sovrastata da un enorme punto interrogativo. Sentiamo allora a questo proposito il punto di Sergio Nava. Si sono sgonfiate nell'arco di un solo pomeriggio le speranze di trasformare il summit europeo di domenica nella madre di tutti i vertici, in grado di mettere al sicuro l'euro. Dopo voci su un possibile rinvio, Francia e Germania hanno concordato di dividere in due il summit, un primo giro di tavolo domenica sera per poi chiudere il pacchetto in un secondo vertice da fissare entro mercoledì. Il motore franco-tedesco detta dunque ancora una volta i ritmi al resto del continente, pur sfiorando la farsa. Il nodo centrale su cui Parigi e Berlino faticano a trovare un'intesa resta il potenziamento del fondo salva stati, anche se non è l'unico in agenda. Francia e Germania hanno chiesto un immediato avvio dei colloqui con i creditori della Grecia. Occorrerà pure prendere una decisione sulla ricapitalizzazione delle banche europee. Una prima stima dell'autorità comunitaria in materia indica in 70-80 miliardi di euro il fabbisogno, senza contare il coordinamento di bilancio con le prime bozze di intesa del summit che puntano a un rafforzamento della vigilanza comunitaria sui conti pubblici. Le forti indecisioni hanno duramente penalizzato le borse, che hanno chiuso tutte in ribasso. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è volato sopra quota 400 punti, con i rendimenti schizzati ai livelli di agosto. Ma allarma anche il differenziale tra titoli francesi e tedeschi, ieri al record di 119 punti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attesa dunque per questo fine settimana, naturalmente tutti gli aggiornamenti all'interno di GR24 oggi e naturalmente tutta la giornata di domani come sempre. Ma a proposito di Europa, la Commissione europea ieri ha ribadito che l'Italia deve prendere con urgenza le misure strutturali per rafforzare la sua crescita. Lo ha indicato il portavoce del responsabile del commissario agli affari economici Olli Rehn. Il percorso di consolidamento del bilancio pubblico è nella giusta direzione, ha detto, ma occorre mettere una forte enfasi sulle misure per rafforzare la crescita, per creare nuovi posti di lavoro. Questo aspetto che ha aggiunto e costituisce il vero e proprio tallone d'Achille dell'economia italiana. L'Italia dunque tra i sorvegliati speciali in Europa, perché c'è un problema di credibilità che va risolto con riforme profonde. Questo ha detto ancora ieri il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al termine dei lavori del Business Forum italo-tedesco. La presidente di Confindustria ha aggiunto: in questo momento l'Italia si trova, anche se non ce lo meritiamo del tutto, tra i sorvegliati speciali. Da parte della Germania però non c'è nessun commissariamento. Punto e a capo. Il mio divieto è un divieto temporaneo, perché è un divieto che chiede una nuova regola. Cioè, io non è che dico non facciamo più manifestazioni a Cortina e Centro Storia per tutta la vita. Io chiedo una regola che dia dei limiti, che dia delle attendibilità. Perché il problema qual è? Che la CGIL manifesta e sa manifestare, ma dietro il modo in cui la CGIL fa le sue manifestazioni non c'è nessuna regola che impedisca che dietro la CGIL vanno COBAS, gruppi, sottogruppi, eccetera, eccetera, che non hanno nessuna capacità né di avere regole, né di avere numeri sufficienti per dire, per dare credibilità alla protesta, e né un limite attraverso cui manifestare. E la CGIL non ha mai avuto il coraggio di fare un distinguo tra se stessa e queste altre realtà. Allora bisogna fare in modo che escano fuori delle regole e che ci sia una scelta irrevocabile, irrevocabile di legalità, proprio per l'esperienza che ognuno di noi ha vissuto 10, 20, 30, 40 anni fa. E questa voce credo l'abbiate riconosciuta, era quella del sindaco di Roma Gianni Alemanno in relazione alle decisioni assunte all'indomani della manifestazione di sabato scorso, manifestazione degli indignati che poi ha appunto avuto uno sbocco nelle violenze che appunto di sicuro non facevano parte del motivo e della storia della manifestazione, ma tant'è, insomma, è accaduto ciò che è accaduto. Il sindaco di Roma ha imposto quindi delle misure restrittive che hanno portato tra l'altro ieri a una manifestazione dei metalmeccanici in qualche modo priva di corteo, anche se poi un corteo c'è stato, nel senso che per raggiungere Piazza San Giovanni i metalmeccanici hanno dovuto sfilare per le vie della città. Ma sempre di manifestazioni ad altissima attenzione parliamo spostandoci da Roma a Chiomonte, in Val di Susa, dove appunto domani è il giorno della protesta dei movimenti in ottavi. I manifestanti hanno detto chiaramente che puntano ad arrivare al cantiere, nonostante il divieto del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Siamo pronti anche a farci arrestare, ma non vogliamo violenze. Questo ripete uno dei leader storici del movimento, Alberto Perino. Lo sentiamo intervistato da Raffaella Calandra. Noi facciamo un'azione di disobbedienza civile. Vuoi arrestarmi? Arrestami! Quindi non vi accontenterete, certo, di stare a quella distanza di sicurezza. La proposta che facciamo è questa. Poi diciamo anche che chi non se la sente non è che noi lo consideriamo né un codardo né un traditore. Siete sicuri di riuscire a garantire che sia una manifestazione pacifica? Chi viene a quella manifestazione viene alle nostre condizioni. Chi pensa di fare delle cose diverse è fuori dal movimento No TAV, è un nemico del movimento No TAV. Ma se vi dovessero fermare, perché lì ci sono i poliziotti che vi dicono che non dovete andare fino alle reti, sì, a quel punto di passare da un'altra parte. Se ci impediscono di passare dal sentiero, noi cercheremo di passare da altre strade. Nessun scontro. Questo era dunque Alberto Perino. Per Barbara Bonino, invece assessore ai trasporti della Regione Piemonte, le parole di Perino confermano la saldatura tra l'ala radicale del movimento e i professionisti della violenza dei centri sociali. Come a Roma, sostiene la Bonino, ma anche a Chiomonte, il rischio è evidente. Il rischio è che la manifestazione degeneri una volta, ancora una volta anzi, in una cieca battaglia contro le forze dell'ordine. Dice: siamo seriamente preoccupati per l'annunciata presenza nel corteo di gruppi di chiara matrice eversiva che cercheranno unicamente lo scontro, e mi auguro, ha concluso nel comunicato, mi auguro che almeno in questa occasione, ha concluso, che gli amministratori locali non partecipino ad un evento il cui obiettivo è legale ma ostentatamente dichiarato è l'apertura di varchi nelle recinzioni del cantiere. Punto e a capo. Rieccoci, ancora un saluto, io sono Gigi Donelli, questo è Punto e a Capo, e tra le voci che abbiamo sentito questa settimana merita sicuramente una citazione, uno spazio, quella del sindaco di Verona, Flavio Tosi. Flavio Tosi è stato ospite alla Zanzara proprio mentre la bufera intorno al suo nome montava, in attesa dell'incontro chiarificatore. Vi ricordo solo breve citazione: Bossi a un certo punto ha dato dello stronzo a Tosi, tanto per essere, come dire, chiari sul suo pensiero, poi però ha anche detto non ho nessuna intenzione di espellerlo dalla Lega. Insomma, il clima è rimasto alquanto teso. Nel frattempo Tosi è partito per gli Stati Uniti per un viaggio di lavoro. L'incontro dunque chiarificatore appena citato è atteso per la prossima settimana. Ma sentiamo il sindaco di Verona, ospite della Zanzara. A Roma e a ruoli di governo, sì, in Parlamento, è ovvio che per un fatto di lealtà istituzionale rispetto al Presidente del Consiglio non può magari esprimere liberamente quello che pensa perché è il suo Presidente del Consiglio. Io invece ho la possibilità di esprimermi più liberamente e dire quello che penso. Dunque, lei dice esattamente il contrario di quello che è contenuto in quel famoso, non so se no, sia una direttiva. Non è vero. Non è come vero. No? Perché quella circolare dice che non bisogna andare, non è che dice nessuno deve parlare. Che un sindaco si deve occupare degli affari. Non bisogna andare contro le linee del movimento. Io l'alleanza, ho sempre detto che questa alleanza è l'asse portante di quelle che sono le riforme che si possono fare nel paese, quindi io non ho mai messo in discussione l'alleanza col PDL. La Lega PDL, ho messo in discussione la figura del Premier. E ne ho parlato perché? Perché come sindaco, nel momento in cui viene fatta la finanziaria, e la finanziaria su di me sindaco e in particolare sui cittadini incide molto, è chiaro che io esprimo una posizione su un tema che mi riguarda, perché la finanziaria, se non toccasse i comuni, non avrei nulla da dire. No, ma certo, però lei non parla solo della finanziaria, come è evidente, ma come anche in una recente intervista a Repubblica parla della figura di Berlusconi in generale. Dunque lei pensa che ha tutto il diritto di parlare del Presidente del Consiglio? Ma io penso che... Cioè non è in contrasto con quello che dice Bossi, con quello che c'è io nello... Io ho la fortuna di poter esprimermi con più libertà rispetto a chi ha altri ruoli. E dunque è nel suo diritto. Magari la pensa esattamente come me, ma non può dirlo. Ok. Dunque non è in contrasto con la, cioè lei esprime pareri su Berlusconi? Chiamiamolo un po' un gioco delle parti, nel senso che io posso dire quello che voglio e quindi lo dico con più libertà e magari comunque questo non dico che faccia comodo, ma può essere utile a chi sta a Roma, che porta avanti certe battaglie e può dire al Presidente del Consiglio: guarda che il territorio, guarda che i sindaci sono incazzati. Ho capito, e quanta gente c'è che condivide la sua idea all'interno della Lega, secondo lei, a livello di dirigenti? Beh, a livello di dirigenti non vi posso dire i nomi perché... Vabbè, i nomi no, perché i nomi c'è no. Perché c'è la privacy, però qualcuno che la pensa come me c'è di sicuro. Allora, più di qualcuno, diciamo. Diciamo gran parte dei dirigenti di uno, della Lega... Più di uno. Si può dire più gran parte... e meno di 100.000. Fermai. Io dico che più di qualche dirigente della Lega la pensa come me, proprio per ragioni di ruolo, ma non perché abbiano paura, perché hanno un ruolo tale che, come le dicevo prima, per una questione istituzionale non possono dirlo. Allora, abbiamo il traffico, poi torniamo posso su... Io posso dire che i nostri deputati certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma gli fa volta stomaco come le hanno fatte, e loro mica possono dirlo, ma io glielo posso dire. Il capo ha sempre ragione. Bossi è come un papà severo. Un bello schiaffone a Tosi può fare solo bene. L'unico che ne trarrà vantaggio sarà proprio lui. Così invece parla intorno a questa vicenda l'europarlamentare della Lega, Mario Borghezio. Dice: il segretario è legittimato a farlo, va interpretato come una paternale. Aggiunge: Tosi è giovane e si può comprendere che sia un ribelle, ma Bossi ha ragione e dietro a questo rimprovero c'è solo dell'affetto. Punto e a capo. E ora dalla politica alla televisione, all'informazione. Il giornalismo ben fatto in televisione a quanto pare infastidisce, a quanto pare, e lo dico perché altrimenti non si spiegherebbe come mai un programma come quello di Milena Gabanelli, mi riferisco a Report, faccia così fatica a godere della tutela legale che una struttura di quel tipo, programma d'inchiesta e di successo, deve avere. Allora, Milena Gabanelli, ospite di Alessandro Milan. Perché la politica però si interessa così tanto di alcune trasmissioni? Perché la politica non riesce ad accettare il fatto che ci possa essere anche il diritto di fare un giornalismo di inchiesta, il diritto di un giornalismo di critica? Ma non è solo la politica, è un po' la cultura del paese, vale anche per l'imprenditoria. Sono abituati ad essere più coccolati, ad essere più... a che fare con un tipo di giornalismo un po' più servile, se vogliamo. E comunque la critica diretta o lo smascheramento è, non per tutti i politici, perché qualcuno lo tollera, ma per alcuni è veramente qualcosa di più forte di loro, se possono si vendicano dopo. E qualcuno, per esempio, lei quest'estate ce l'aveva, ha detto secondo me una vendetta del ministro Tremonti, che tra l'altro è azionista come ministro del tesoro della RAI ovviamente. Si è appianato. È vero. Allora, il ministro è azionista della RAI perché appunto controlla il 99,9%, però essere azionisti della RAI non vuol dire essere i proprietari. È il ministro di tutti gli italiani e la RAI è un servizio pubblico. Detto questo, che insomma io non sia particolarmente simpatica al ministro Tremonti, credo sia un fatto noto, e non l'ha mica neanche ordinato il medico, voglio dire, non è che devo per forza essere simpatica al ministro o che bisogna andare d'accordo con tutti. È chiaro che un suo fastidio si ripercuote su tutte le decisioni che devono essere prese attorno a questo programma. Martedì 18 ottobre, il caporale Shalit riabbraccia la sua famiglia in una base aerea a sud di Israele. Così si porta a compimento uno scambio che ha catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo, il caporale dunque contro 477 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. sono sollevate naturalmente molte voci, le manifestazioni da parte israeliana e palestinese soprattutto sono diventate delle grandi manifestazioni di piazza. Alcune voci nelle ore, nei giorni successivi che arrivano attraverso le agenzie. Una di queste arriva da Ahlem Tamimi, 32 anni, giordana. Dice: non sono pentita e lascio che Israele bruci pure della sua rabbia. Ma insomma, intorno al senso di questo scambio, lo ricordo, uno scambio tra un israeliano e 477 palestinesi, Manuela Dviri, scrittrice italiana, naturalizzata israeliana, spiega il senso in una delle nostre trasmissioni del mattino. Sentiamola. Uno scambio necessario, uno scambio giusto, uno scambio richiesto dal paese intero, che ha lottato per 5 anni perché avvenisse lo scambio, e quando è venuto il momento giusto perché avvenisse, infatti è avvenuto. E quando l'atmosfera è cambiata, quando è cambiata la realtà fisica e politica e c'è stata la possibilità di farlo, è stato fatto. Senta, ovviamente tutto il paese, tutto Israele è vicina ai genitori di Gilad che hanno lottato per questo, però molti si chiedono ovviamente per questo, per la liberazione di Gilad, verranno rilasciate persone che si sono macchiate di delitti efferati, palestinesi, che magari, chissà, potrebbero anche tornare a compiere altri delitti. Questo è un problema? È un problema, certo che è un problema, ma per un paese così piccolo come Israele, in cui praticamente c'è ogni cittadino è stato soldato o sarà soldato, ha un figlio soldato, un parente soldato, l'idea che chi va soldato possa cadere, diventare prigioniero del nemico, diciamo, e poi non essere rispettato, è una paura che è una paura terribile per il cittadino israeliano. C'è anche un concetto molto israeliano che Israel Arevim Zebeze, cioè ogni israeliano è responsabile di tutti gli altri israeliani. Punto e a capo. I legali di Unicredit sono al lavoro per valutare il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro alla banca di 245,9 milioni di euro e per definire le possibili contromosse. È quanto si evince da un comunicato diffuso dall'istituto, in cui si conferma da un lato che la Guardia di Finanza, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, ha sequestrato 245 milioni di euro sui conti di Unicredit presso la Banca d'Italia in relazione agli accertamenti effettuate su una serie di operazioni poste in essere tra il 2007 e il 2008 con la filiale di Milano di Barclays PLC e da quest'ultima denominate Brontos. Allora, a Focus Economia, Moria Longo spiega questa vicenda obiettivamente complessa. Sentiamolo. Come funzionava Brontos? È una cosa complicatissima. Oddio. Ed è fatta apposta complicata proprio per far perdere le tracce, penso io. Cioè, è l'unica spiegazione logica a una complicazione del genere. Sostanzialmente, semplificandola, veniva così. Viene creata una società in Lussemburgo, da Barclays, la quale questa società emette dei titoli atipici, che non sono né azioni né obbligazioni, sono profit participation instruments. Titoli atipici. Manco si pronuncia praticamente. Esattamente, sì. PPI li chiamano in inglese. PPI. Questi titoli vengono venduti alla Barclays Milano, la quale ovviamente per comprarli li paga alla società lussemburghese, la quale mette questi soldi che incassa nel conto corrente di Barclays a Londra, nel conto in un deposito. A questo punto dal deposito di Londra arrivano gli interessi ovviamente, che vengono girati alla Barclays Milano. È qui che inizia a entrare Unicredit, perché Barclays Milano a questo punto usa questi titoli per darli a Unicredit attraverso un cosiddetto pronti contro termine. Te li do oggi e tra un tot di tempo me li ridai indietro a un prezzo prestabilito. Per cui nel momento in cui questi titoli erano di proprietà di Unicredit, era Unicredit a percepire questi, tra virgolette, interessi. Ed è proprio questo il problema, perché secondo l'inchiesta del procuratore aggiunto Alfredo Robredo della Procura di Milano, tutta questa ambaradan era semplicemente costruito per far sì che Unicredit non percepisse interessi che sono tassati in Italia, ma percepisse dividendi. Secondo il procuratore aggiunto, questa operazione non era nulla altro di un deposito interbancario mascherata proprio per trasformare in maniera virtuale gli interessi in dividendi per avere questo beneficio fiscale. Punto e a capo. Eccoci qua per gli ultimi minuti insieme di Punto a Capo per parlare di sfide impossibili che diventano possibili. Si è parlato anche di questo durante la settimana di Essere Benessere, lo ricordo, tutti i giorni dalle 11 con Nicoletta Carbone. Questa settimana tra gli ospiti Alex Zanardi, presente con la sua voglia fortissima di non arrendersi mai. Sentitelo. Per educazione, per carattere, per quello che mi ha passato mio padre, che era una persona di cultura abbastanza modesta ma estremamente saggio. Papà faceva l'idraulico, mi ha sempre insegnato che se una cosa è già stata fatta da altri, dotandosi, come dire, dello stesso bagaglio di informazioni, lavorando allo stesso modo, eccetera, non c'è ragione per cui non si possa addirittura innovare. E fondamentalmente questo mi è servito nello sport, ma mi è servito anche in circostanze abbastanza complicate come quello del mio incidente, dove alla fine crearsi una lista di priorità, ragionare sul problema principale e rimanere focalizzati su quello prima di passare a depennandolo, appunto, dopo averlo risolto, a ciò che seguiva poi in lista, no? Ecco, sono queste le cose che mi hanno portato passo dopo passo a tornare alla vita, a vivere molto bene, a provare delle soddisfazioni. Io credo che sia molto importante, da un lato, essere, come dire, aver fiducia nelle proprie capacità, essere consci che se una cosa è già stata fatta da altri, anche noi possiamo tutto sommato fare il nostro tentativo, e che porta sempre un risultato. E attenzione, perché poi vogliamo diventare tutti campioni del mondo di qualcosa e questo non è possibile, però il fatto di averci provato al meglio delle nostre capacità è un qualche cosa che ci deve permettere di guardare allo specchio e vedere riflesso qualche cosa che ci piace. Punto e a capo. Ampio spazio alla selezione dei concorrenti, televoto gratuito, puntate in HD, finalissima in 3D addirittura. Questi i punti chiavi del nuovo X Factor che ci viene raccontato dalla nostra Marta Cagnola, partendo da Fabrizio Salini, direttore entertainment e cinema di Sky. Sentiamolo. A noi ci rende felici aver fatto, aver prodotto e stiamo producendo, come dire, un programma qualitativamente altissimo di cui siamo assolutamente soddisfatti. Questo è il nostro obiettivo principale. Ovviamente si tratta di mantenere gli abbonati che ci sono e magari conquistare i nuovi? Assolutamente, questo è il nostro compito primario. Come mai avete deciso un investimento così grosso? La RAI non si poteva più permettere di fare X Factor? Non so se la RAI, onestamente, è un investimento su un prodotto, come dire, che sul programma che avremmo scelto in ogni caso, il programma che ci convince di più, il programma che sta avendo un successo sconfinato anche in altri territori, in UK, come negli Stati Uniti, e quindi noi l'abbiamo considerato il programma di intrattenimento di cui aveva bisogno Sky. È un inizio? È un inizio. Conduttore sarà Alessandro Cattelan, in giuria torna Morgan. Io sento il divertimento del gioco e anche dell'aspetto, se vogliamo, professionale, serio, nell'avere a che fare con delle giovani spugne che apprendono qualsiasi cosa, e allora è bene che questo rapporto sia serio, che sia un'occasione per il popolo degli amanti della musica di vedere una gara a livello alto. Però ecco, io penso che l'impegno in questo senso sia doveroso e sia anche quello che la gente vuole, tra l'altro. Dalla musica di X Factor a quella in uscita nei negozi, è arrivato proprio lunedì Vita Mia, l'ultimo album di Gianmaria Testa, un album che parla, naturalmente, aggiungo, di temi sociali, ma anche di amore, di vita, del suo personale bilancio. Se uno mi avesse chiesto quanti giorni ha vissuto uno che ha vissuto un secolo, io avrei detto, forse 2 milioni di giorni, no. Ha vissuto 36.500 giorni più qualche rotto derivante dai bisestili. Quindi il mucchietto, la riserva di tempo è piccola. E questo significa che non possiamo, uno, non possiamo sprecarla noi. Questa è una cosa proprio, questa è una cosa che ti manda all'inferno, anche per i non credenti. Due, non possiamo farcela rubare dagli altri, vivendola male, vivendola in modo inutile. Ovviamente anch'io passo, come tutti, le mie giornate inutili, butto via, me ne pento, mi dispiace, eccetera. Però insomma, questa prospettiva di giorni che trasforma una vita mi ha fatto scrivere un disco come questo. Questo è stato l'incipit. Però c'è anche tanto mondo nel tuo disco, ci sono anche tematiche sociali, ti sei guardato in giro tanto in un momento difficile. Per forza, perché il mio presente è questo, i giorni che vivo sono questi, sono fatti di licenziamenti, sono fatti di precarietà che viene chiamata elegantemente mobilità, sono fatti di centri di accoglienza temporanea che sono dei lager, sono fatti di molte, veramente troppe direi, storture, sono fatte di un fondo che non si trova mai. Al quale non si arriva mai, sembra che qualcuno inveteratamente continui a scavare questo fondo infinito. E quindi il mio presente è anche questo, e secondo me una delle cose che competono a chi ha acquisito un piccolissimo diritto di audience è quello di non nascondere la verità, non la verità assoluta, ma la sua piccola quotidiana verità. Bene, con questo spazio, come di consueto, con gli spettacoli, la televisione, il cinema, concludiamo anche questo appuntamento di Punto a Capo. Da parte di Fabio Cantadori in regia, di Gigi Donnelli in conduzione, ancora un saluto, un buon fine settimana. Adesso l'appuntamento con l'Europa, poi in realtà ci risentiamo tra poco per qualche minuto per un piccolo approfondimento, ma insomma, restate naturalmente insieme a noi con gli appuntamenti di Radio 24. Buon fine settimana a tutti voi.